Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Stasera ascolteremo la seconda parte dell'intervista a Carlo Ratti. La prima è andata in onda settimana scorsa. Ratti è considerato uno dei massimi esperti planetari di Smart City, architetto ed ingegnere, dirige il Sensible City Lab del MIT di Boston, collaborando con le amministrazioni davvero di molte grandi città di tutto il mondo. L'ho incontrato davanti a una sorta di schermo da cottura, potremmo definirlo così, cioè un grande schermo touchscreen su quale si possono appoggiare le pentole per cuocerci le vivande. Ebbene, in quella circostanza, al Salone del Mobile, gli ho chiesto di raccontarci un po' dei progetti nei quali è impegnato in prima persona. E abbiamo iniziato proprio da Hot Point, questo progetto dedicato a uno degli ambienti più frequentati dagli italiani, la cucina, appunto. Sentiamo. Il progetto è nato da una domanda molto precisa che ci è stata fatta da Indesi Group, e che dal prossimo anno in tutti gli elettrodomestici ci sarà un chip che gli permette di essere in rete. E la domanda è: a quel punto come cambierà il nostro modo di cucinare o di svolgere le faccende domestiche? E allora abbiamo cercato di ragionare su questo, e i punti sono poi diversi, ma uno è: sapete quando oggi abbiamo queste interfacce, magari quella del forno che ha la curva del soufflé, magari quella della lavatrice che ha 300 programmi, però se non andiamo a guardare il manuale non riusciamo a scegliere. Allora la prima cosa è semplificare la nostra vita e portare tutto questo su quelle interfacce che ormai conosciamo, tipo iPad, tipo computer, con cui abbiamo familiarità e che non necessitano di manuale. A quel punto poi anche l'elettrodomestico può cambiare pelle, nel senso che può avere nuovi sensori, ci può dire informazioni che oggi già ha, che però non riesce a comunicare, tipo quanta energia consuma, la qualità dell'acqua, come succede in lavatrice o in lavastoviglie. E anche, perché no, possiamo aggiungere nuovi sensori. Ad esempio, non so, quando io sono in salotto al lavoro, magari a rispondere agli email, devo alzarmi ogni 5 minuti per andare a controllare cosa c'è nel forno. Perché non mettere una piccola telecamera nel forno, così lo controlliamo direttamente dal salotto, e poi quando il pollo arrosto è pronto semplicemente mandiamo un filmino su Facebook agli amici, che è un po' la versione moderna del ho buttato la pasta. Nella conferenza, che se non sbaglio si è svolta qui ieri, ha fatto un po' di esempi di attività che stai facendo anche in altre città. Ci vuoi raccontare molto brevemente alcune di queste iniziative? Ma sì, noi stiamo lavorando in diverse città. A Singapore abbiamo una nuova sede. A Singapore lavoriamo proprio con la città sui temi della mobilità intelligente, della raccolta di dati, della condivisione di dati con i cittadini. Un'altra città partner è Rio de Janeiro, dove stiamo lavorando con la Banca Mondiale, invece su quelli che si chiamano in inglese informal settlements, sono le favelas piuttosto che altre parti della città, comunque dove manca un'infrastruttura di base. E l'aspetto interessante è che possiamo usare le nuove tecnologie per creare un'infrastruttura più dinamica. Come? Ci sono diversi esempi, ma uno dei progetti su cui stiamo lavorando è quello di un mini ospedale che si muove nella favela, quasi uno zaino che permette di ridurre i costi della sanità e di spostare l'ospedale, portare l'ospedale alle persone invece di dover demolire un pezzo della favela per mettere un ospedale. Oppure un altro problema, un grande problema ad esempio, è quello dell'acqua e la qualità dell'acqua. Molto spesso ci sono molte persone che si ammalano proprio perché l'acqua che arriva, per vari motivi, spesso è leggermente inquinata. E allora in questo caso, al posto di rifare tutto il sistema dell'acquedotto, che sarebbe molto difficile, in particolare in una favelas, l'idea è di utilizzare quei filtri che già oggi usano, renderli intelligenti, mettere dei piccoli sensori in modo che la qualità dell'acqua viene monitorata alla fine e queste informazioni sono condivise con la comunità, in modo che se c'è un problema lo sappiamo tutti. Stiamo ancora lavorando su la ruota di Copenaghen, questa ruota di bicicletta, e quando applicata a qualsiasi bicicletta in modo molto semplice ve la trasforma in una bici elettrica, una bici quando frenate raccoglie la vostra energia, poi ve la ridà quando ne avete bisogno e vi permette anche di raccogliere informazioni e dati anche sulla qualità dell'aria, sulle miglia percorse, eccetera. E questo è un progetto adesso che ha un paio d'anni, ma di cui abbiamo fatto due nuovi ingegnerizzazioni del prototipo e ci stiamo avvicinando all'industrializzazione. Oppure stiamo lavorando con altre città in giro per il mondo, con la Fondazione Clinton a Giacarta, con Bolzano, con la provincia di Bolzano, con SNCF, la società francese delle ferrovie su Parigi, e poi con altri insomma in America. Ecco, mi pare che una, diciamo, degli approcci ricorrenti che si trovano in vari, o almeno in alcuni dei progetti ai quali state lavorando, è quello dell'utilizzo del cellulare come modalità per tracciare, almeno nel campo della mobilità, gli spostamenti delle persone. Ormai tutti ne hanno uno, quasi tutti contengono un GPS, insomma la possibilità oggettivamente c'è. Al di là di problemi di privacy, mica privacy, che naturalmente vanno gestiti, ma sono anche gestibili, che cosa ci si può fare con queste informazioni? In che modo si possono utilizzare queste informazioni per migliorare dinamicamente, immagino, la mobilità? Ma diciamo, le reti cellulari sono uno di molti aspetti, effettivamente, però sono una di quelle reti che è stata sviluppata negli ultimi decenni, che ha cambiato la nostra vita. Pensate a come ci spostavamo, ci parlavamo, ci coordinavamo soltanto 3 decenni fa, quando non esistevano le reti cellulari, e quindi è piuttosto interessante. Ci sono moltissime altre tecnologie, e il nostro obiettivo è un po' diverso. Il nostro obiettivo è un po' di capire come oggi riusciamo a risolvere problemi vecchi in modo nuovo. Se questo modo nuovo ha a che vedere anche con tecnologie, con i cellulari, va bene; se invece è un modo nuovo diverso, è lo stesso. Per tornare alla domanda sui cellulari, effettivamente questi dati, i dati della rete cellulare, ci permettono oggi di capire molte cose della città, ad esempio il traffico. Quando aprite una mappa di Google, quelle mappe che hanno il rosso e il verde per dirvi le strade che sono più intasate, queste mappe sono ottenute proprio partendo dall'analisi dei dati delle reti cellulari, che è un progetto che noi iniziamo, fu un progetto all'inizio pionieristico, che venne sviluppato con Telecom Italia e che venne presentato nel 2006 alla Biennale di Venezia, e che oggi invece è diventato quasi comune di giornaliero. Come si fa, per esempio, all'utente finale a far arrivare un'informazione utile a partire da tutta questa messe di informazioni che viene raccolta? Ma l'analisi dei dati della rete cellulare può servire per molte cose. Il modo più semplice di usarla, facciamo questo esempio, quello del traffico. Allora sappiamo in tempo reale cosa succede in città, sappiamo se ci sono dei problemi, degli ingorghi, degli incidenti, e queste stesse informazioni comunicate poi ai cittadini in molti modi, ad esempio attraverso il cellulare, piuttosto che automaticamente attraverso il navigatore, come succede sempre di più, o attraverso cartelloni anche nella città, ci permette poi di cambiare, di rispondere, di cambiare ad esempio il nostro percorso in modo da far funzionare meglio la città. Beh, insomma, credo che questa sera sia emerso chiaramente come questa partita delle Smart City abbia davvero moltissime dimensioni, molto diverse tra loro. Di dimensione temporale però noi ne abbiamo a disposizione solo una, quindi ci dobbiamo fermare qui. Appuntamento a domani.